se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Vogliamo sapere per andare dove dobbiamo andare. Per dove dobbiamo andare? Sa, è una semplice informazione. Siete contenti della legge elettorale che si sta profilando? No, non è la mia legge elettorale, non è la nostra legge elettorale. E quindi di conseguenza vi propongo di aderire, di votare la relazione con il consenso del PD per andare a accettare il sistema tedesco. La banale semplificazione per cui questo è un inciucio Renzi Berlusconi è talmente stancante da aver perso anche l'elemento di divertimento che aveva all'inizio. Noi siamo stati accusati, pensate un po' che cosa meravigliosa, prima di aver fatto l'inciucio, poi di averlo rotto, e contemporaneamente siamo riusciti ad essere accusati dalle stesse persone dell'uno e dell'altra cosa suprema. Quando sento qualcuno dire: beh, se si va alle elezioni però è un pericolo. Ragazzi, questa si chiama democrazia. Succede ogni tanto di andare alle elezioni. Già succede. E succede probabilmente a settembre, perché l'accordone è stato fatto, l'accordone tra Forza Italia e PD, e quindi forse anche la Lega, il Movimento 5 Stelle, tutto l'accordone c'è. E quindi campagna elettorale balneare, ecco, questo è l'unico aspetto, una goduria estrema. Stare quest'estate sulla sdraio con un mojito in mano e godermi le minchiate dei politici che promettono cose. Questa è l'unica cosa. E tu sei lì e hai un piccolo sussulto sulla sdraio. Tutti ammalindi. caro presidente De Luca, anche più vicino, non lo so. Si va lì la mattina, si fa un po' di festa. Con lo spritz. Ma che meraviglia! E leggi, senti un po', oggi che cosa ha detto il tal politico in campagna elettorale? Tu... Vabbè dai, facciamo un tuffo. E tu sei lì in costume mentre loro in giacca e cravatta, oppure magari la cravatta no, al 14 di agosto devono dichiarare qualcosa per racimolare 3 voti. Sarebbe una goduria. Bello che poi danno del qualunquista a me. Sono loro i qualunquisti. Sono loro i qualunquisti. Loro sono i qualunquisti. Quelli che ci portano a votare senza sapere per che cosa, per una direzione, per che cosa stanno andando a votare. Per che cosa? Mezze pippe. Adesso De Luca, non esagererei. Per che cosa? Dov'è un programma? Dov'è una visione? Dov'è un'idea dell'Italia che si vuole creare? Dov'è? Niente c'è! Il nulla! Il nulla! Si vuole andare a votare per tornare al potere o andare al potere. Per fare cosa? poi ve lo faremo sapere. Rilassante, riposante. Poi ve lo faremo sapere, cari italiani, con calma. Signori, a Paratico ci sono 19 gradi. Mentre a Ciorlano 16 gradi, tempo umido e velato. A Ponte di Legno 12 gradi, si sale di quota, saluto Umberto. A Lodi 20 gradi, ciel sereno, Matteo. A Metaponto sole 15 gradi, grazie Andrea da Taranto. Sulla 4 verso Bergamo 22 gradi. Auguri a quel gobbaccio di Ezio che sogna il triplete. Beh, insomma, il triplete l'hanno fatto gli juventini, complimenti. Buongiorno Alino dall'Indonesia, ci scrivono. A Bali 29 gradi, gran sole. In Indonesia, a Bali in questo momento. Mentre ci sono 21 gradi a Carpi, Roberto ce lo fa sapere. Ci arriva anche un buongiorno da Bangkok. Io voglio salutare il nostro scrittore preferito, il nostro grandissimo Mauro Corona. Buongiorno Mauro. Buongiorno a voi. Quanti gradi fanno lì? Ah, non lo so, non mi occupo di gradi. Vivo le giornate col sole o la pioggia. Diceva John Ruskin, non esiste il brutto tempo. Esistono vari tipi di bel tempo. Sto lì a cercare i gradi, su. I gradi. Ma che cosa gliene frega la gente quanti gradi sono a Bangkok? Ma io non riesco più a capire. Ma se uno deve andare a Bangkok, no, ma... Ma quando è lì capirà quanti gradi ci sono. Ma perdiamo mezz'ora di trasmissione a dire i gradi di Ponte di Legno. Ma a Ponte di Legno saranno interessati a sapere dei gradi. Ma lo sapranno loro lì, si mettono un termometro fuori. E lo guardano e non ce lo dicano. No, e non ce lo dicono, mi sembra giusto. Allora, siamo con Mauro Corona oggi. E che dire, apriamo subito il Parlamento, perché qua dobbiamo capire un attimo. Il momento è critico, il momento è duro, il momento è difficile. Hai capito, Mauro, perché si va a votare, tu almeno no? No, si va a votare per andare al potere, no? Che se Renzi vuole potere e fa le comunelle con adesso con Berlusconi, perché sa che se si mette con Berlusconi è facile che vada al potere. Lui gli interessa il potere, non gliene frega niente come va l'Italia. Il potere, essere lui, fare le spedizioni, andare dal presidente quello, da andare negli Stati Uniti, il potere. Oh, viaggiare, vedere. Sì, magari abbottonarsi la giacca con un bottone più in su, dalla fretta di esibire il passo marziale, quello sulle strisce, sui tappeti. Ah, rossi. Mi ricordo una volta, sì, che si è abbottonato con la Merkel. Ma più di una volta. Il capotone sbagliato. Vabbè, succede. Insomma. E poi, tra l'altro, fanno finalmente la legge come quella tedesca, e poi aggiungo, ma veramente siamo ricco, però con correzioni italiane, fanno ridere, e se non fosse una roba seria sarebbe da piangere, ma fanno ridere, infatti, correzioni italiane. Infatti però, è quello che dico anch'io, no? Perché attenzione, poi Mauro ti danno il qualunquista e dice no, ma la questione è seria, la questione è serissima, sono loro che la buttano. La questione è seria, solo che non ne escono, sono loro che non sono seri, la questione appunto. È seria e come? Certo che è serie come, anche perché adesso non è che dobbiamo stare dietro a banche, non è che dobbiamo stare dietro a industriali, alla finanza, eccetera, però a Monti, Paduan, cioè ci sono molti allarmi che dicono ma perché si va a votare, cioè nel senso occhio, non è che cambi il governo, ma se uno non ha una visione di quello che vuole fare, cioè tra 6 mesi saremo qui a dire boh, ricambiamo il governo. Tanto il pile un pochettino di potere, anche se per pochi mesi, poi lo riprenderò in caso. Non vedo un programma per andare al governo a fare una cosa e risolvere i problemi, soprattutto dei paesi dove che stanno chiudendo le poste, le scuole, gli asili, i servizi. Sì. Cioè, l'Italia ha bisogno di aiuto e soprattutto indeterminate. Gliene fregano a loro di questo. Per dire, il caso Ilva, oggi sui giornali, 6.000 esuberi, cioè persone, sì, non lo so, non so le questioni tecniche dell'accordo, eccetera, ma Queste sono le questioni che poi impattano socialmente sugli italiani. Cioè a Taranto ci sono, soprattutto a Taranto ci sono famiglie che rischiano di trovarsi con senza lavoro. Loro non hanno a cuore queste, ma anche nel piccolo, cioè l'Italia è talmente messa male con le regole, con le leggi, che anche nel piccolo 6.000 esuberi sono da prendere paura. Ma qui hanno chiuso negozi oberati di tasse, ma vuole che le dica una. Allora a Casso ci sono 16 anime, 16 persone. Dove? Sono due paesi. Una signora com'è che si chiama il paese? Tasso. Arroccato su un dirupo, bellissimo e anche inquietante. Quanti gradi ci saranno? A Casso non lo so, sono i gradi delle persone, sono 16 persone. 16 persone. No? E una signora ha avuto l'ardire di aprire il bar della nonna. Tre volte che vado lì, tre volte vedo la fidanza che controlla sta povera disgraziata. Qui a Erto hanno chiuso un negozio che vendeva libri, vendeva souvenir, vendeva opere di artigianato, oberati di tasse. Tasse. È anche il problema, non è solo l'Ilva, è anche le piccole comunità dove stanno uccidendoci. E noi resistiamo in barba a Renzi. In barba a Renzi. Beh, adesso mica sarà colpa di Renzi che manda la guardia di finanza. No, sono colpa, ma anche sua, perché quando andrà al potere non curerà questi dettagli. Farà la TAV, il Ponte Messina, il Mose. Ma le piccole cose no, dici, le piccole cose che fanno le piccole, diceva Jean Genot, il vero bisogno sta nelle piccole valli dove ci si può chiamare da una costa all'altra. Insomma, anche l'Ilva, per carità. Sì, ma per carità anche l'Ilva. Però si è capito. Intanto Mauro Corona chi voterà? Già detto che non si sa chi vota. Non so, sinceramente ho sempre votato a sinistra, ma non sarà mica quella la sinistra di Renzi che fa comunella con Berlusconi, ma ehi. Questa roba, secondo me, la cosa che fa più arrabbiare Mauro Corona è vedere Berlusconi che torna in auge. Berlusconi. Ma torna perché a Renzi di Berlusconi non frega niente, solo che gli serve come massa di voti. Ma è chiaro che a nessuno frega niente dell'altro, sono funzionali per tornare a comandare. Ecco, funzionali. Mi butterò sui 5 Stelle, non lo so. Anche niente. E vabbè, chissà, a Casso in 16 come voteranno, non si sa. Anche lì, in questi paesini, chi se ne frega della politica? Ma l'importante. Qui nelle valli quassù non votano più, stanno cominciando a vomitare della politica, non votano nessuno. Ho capito, però voglio dire... Più di metà non andrà a votare. Lì la questione è che succede poi, cioè perché questa disaffezione, questa mancanza di legame con la politica, l'aumento dell'astensionismo, poi dopo tanto qualcuno ci va al governo. Anche se votassero... E quello è il problema, che qualcuno... sono disaffezionati, ma si offendono se gli dici andiamo a votare. Il problema è che ci andrà qualcuno. La vera soluzione sarebbe l'utopia devastante, sarebbe che nessuno si presenti a votare, nessuno. Perché il voto è un dovere, nessuno. È un dovere per mettere su quelli, ma non ne voglio più fare dovere, quindi nessuno, anima viva, si presenta a votare, vediamo cosa succede. L'anarchia imprenditoriale, qui non si può più fare nulla, è tutto bloccato, tutto proibito, non puoi aprire un bar, una latteria, se non con la pena di 15 anni di scartoffie, ma così non ci si organizza, devono avere idee, non potere, bisogna avere idee, e non hanno idee, e allora quando non hanno idee cosa fanno? Proibiscono, non puoi tagliare una pianta, aggiustare la tua casa, non hanno idee, vadano a scuola di idee. I lontanari possono dargli idee. Le idee, per esempio? Ma per esempio, nei paesi poveri, nelle zone di montagna povere, accettare un'anarchia imprenditoriale. Vuoi aprirti l'osteria, te la apri. Domani vengo a vedere, se hai fatto il furbo devi finire in galera. Invece no, per fare la tettoia, mi pare che gliel'ho già detto, una lamiera e quattro pali, progettino, 3.000 euro, 5.000, inoltrarlo, commissione tecnica, commissione edilizia, commissione impatto ambientale, commissione sismica, 10 anni per la tettoia della legna, basta! Basta. Ah, devono avere idee se non stiano a casa. Uno che fa? Si fa la tettoia e... La fa abusivo. E poi, quasi tutta l'Italia è abusiva, però se fai la tettoia qui vai dentro. Basta. La rivolta di Mauro Corona. Allora, però almeno c'è un aspetto positivo, secondo me, in questo. Lo sbarramento al 5%. Ieri, quando ho visto Berlusconi ho letto sui giornali Berlusconi dire magari lo vorrebbe mettere al 3. Invece Berlusconi almeno mi ha confortato quando è uscito pubblicamente, ha detto lo metterei all'8. Basta i partitini, basta quelli. Quello è vero. Il problema che mi fa rizzare le orecchie è concorrezioni italiane. Concorrezioni italiane. come per dire correzioni italiane, ma le correzioni saranno una barzelletta, una comica. Certo. Cioè facciamo la legge alla tedesca, con correzioni italiane. Però forse andiamo a votare il 24 settembre come in Germania. Così almeno no, sembriamo proprio un po' tedeschi. Sì, vabbè. Andiamo a votare con loro insieme. Magari ci sbagliamo, andiamo a votare uno in Germania, i tedeschi vengono a votare noi. No, non lo so questo. Vabbè, andiamo un attimo al traffico. Mauro Corona, aspetta un attimo, andiamo al traffico e poi torniamo in diretta. E vai col traffico! Fanno finta di tagliarsi i vitalizi e intanto aumentano la reversibilità del 20%. Oh Milan, ci pigliano per il culo! Ma infatti Milan, due stipendi da politico vuoi mettere? Ah, povera Italia, come si dice dalle mie parti, povera Italia. Totti ha paura, Insinna ha paura. Ma cosa dobbiamo fare noi poveri cristiani? Da 1500 euro forse al mese. Potete dire a Insigne e Totti questa frase? Ma chi se ne frega! Francesco Totti ha dato addio alla Roma. Sì, quando ha letto la lettera è stato un momento commovente. Abbiamo pianto tutti. Era bellissimo anche lo sguardo di Ilari, no? La moglie, sì, un po' perso. La nostra amica Ilari, che noi la conosciamo, quando lo guardava si capiva benissimo che dentro si stava chiedendo: ma che davvero sa legge questo? Ma da quando? Perché non... Paolo e Luca sono grandissimi, altro che Crozza. Allora, siamo con Mauro Corona. Come va il libro Quasi Niente? Come va Mauro? È scomparso. Dov'è Mauro Corona? Dov'è? Perché è scomparso? Non prendiamo più la linea con i paesini, con Casso, no? Con Erto. Niente, va bene. Allora signori, sulla legge elettorale, adesso recuperiamo la linea con Mauro Corona. Legge elettorale, c'è Alfano. Alfano è quello più terrorizzato di tutti, ovviamente, perché rischia di perdere con la soglia di sbarramento al 5% deputati, senatori, e pare che sia infuriato. Correnzi ha detto ai suoi collaboratori: lo faremo impazzire al Senato, Renzi, la minaccia di Alfano. Non abbiamo la questione della soglia perché ci uniremo insieme ad altri e supereremo la soglia del 5% se sarà questa la soglia. Io non capisco l'impazienza del Partito Democratico di portare l'Italia alle urne 3 o 4 mesi prima. Ma non è che c'è tutta questa fretta da parte del Partito Democratico di tornare a Palazzo Chigi? Sono già a Palazzo Chigi. Quindi è solo un problema di persone. Allora io rivolgo un appello al Partito Democratico prima della loro direzione. Pensino all'Italia, pensino al danno che questa impazienza può fare alla nostra economia e a quanti miliardi di euro corrisponde il conto salato che si rischia di fare pagare. Vabbè, insomma, l'appello di Corona. l'appello a Corona, rispondi, l'appello di Alfano ovviamente. Stavo leggendo anche il messaggio di un ascoltatore che ci scrive: ho letto La Via del Sole di Corona in 3 giorni, bellissimo. Vabbè, ma qui si sta parlando di altro, si sta parlando di strategie politiche, si sta parlando di cercare di capire perché tornare al potere e chi può tornare al potere in questo momento. Effettivamente, soprattutto con questa legge elettorale, non si capisce chi potrà tornare al potere, non si capisce chi potrà governare, perché l'idea del proporzionale è proprio questo: si votano i partiti, si votano le liste e poi il governo si formerà in Parlamento in base a quelle che sono le coalizioni che hanno preso più voti. Qualcuno si dovrà unire, e certo, se c'è una soglia di sbarramento al 5%, stando ai sondaggi attuali, di fatto entreranno in Parlamento 4 forze politiche, forse 5, PD, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega sono sicuri, gli altri, anche Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, è lì in bilico con questo sbarramento del 5%, e poi si farà un governo con chi? Chi? È questo il problema, è questa l'idea. Poi dopodiché andiamo a votare, anch'io godrò nel vedere nell'estate questa campagna elettorale in cui si dicono, come al solito, tante, tante cose. In tutto questo vi faccio sentire anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi. È sparito Corona, c'è sparito Corona, non vanno i telefoni, che succede? Ci hanno tagliato le linee telefoniche, è tutto scomparso. Va bene, dai, andiamo a sentire Virginia Raggi, sindaco di Roma, che dice: anche in caso di rinvio a giudizio non mi dimetto. Sarà chiamata a testimoniare sul processo che riguarda Marra, è preoccupata, poi rischia di logorare anche la sua amministrazione questo. Guardi, il dovere di testimonianza è un dovere previsto dal codice, quindi andrò lì come prevede la legge. Sindaca, nel caso di un rinvio a giudizio, come dice Di Maio, non c'è un rischio di sue dimissioni? Guardi, stiamo parlando in questo momento di una cosa che non è attuale e comunque direi di no. Vabbè, signori, questa è Virginia Raggi. A proposito di campagna politica, visto che ho detto che ne sentiremo delle belle, vi regaliamo anche questa chicca. Alessandra Mussolini, che ce l'ha con la brambilla per il Partito degli Animali, e sentite un po' Alessandra Mussolini contro il Partito Animalista. Amica, amico caro, elettore mio, se c'è in sorci un cane, un gatto, un ratto, dai il voto tuo. Amica, amico caro, elettore mio, beh, non è male, questa volta puoi votare per cane tuo. non è male, do il mio voto personale con la paletta da 0 a 10, direi un bel 8 e mezzo all'intonazione per Alessandra Mussolini, anche un testo abbastanza elaborato, anche un'idea di note ben compiute. E allora Alessandra Mussolini vince. Va bene, cosa facciamo? Chiudiamo ancora con i gradi, visto che Mauro Corona così lo facciamo arrabbiare anche se non ci sente, signori. Vi ricordo che a Rovereto, Trento, la temperatura, ma che cavolo è, 293,15 gradi Kelvin. Orazio. A Siena 16 gradi. A Galatina, Lecce 24 gradi. E a Berna Angela, anzi è italiana, quindi Angela, potremmo dire Angela, alla tedesca, svizzera tedesca. A Berna 17 gradi. Signori, e c'è caldo, e c'è afa. A Sonego di Fregona 21 gradi, bel tempo, siamo in provincia di Treviso, mentre in via Miro Ballo al Pendino a Napoli ci sono 18 gradi. E poi 19 gradi e mezzo a Bornasco, Pavia, ci fa sapere Gianfranco. E allora andiamo al giornale radio con i vostri gradi, signori. A dopo per la rassegna stampa. Sono Enrico Ruggeri. Storie affascinanti questa settimana è il falco e il gabbiano.